Allora, a proposito di possibili contagi o un possibile contagio ad altre economie, c'è chi non ci sta proprio a ritenere l'Italia immune rispetto a tutto quello che sta accadendo. Allora, sentiamo un po' le preoccupazioni di Antonio da Piacenza. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei, Antonio. Seguendo un po' i notiziari, vedo che accenni di attacco all'Italia cominciano già a esserci, a parte che c'era già stato un accenno in autunno, anche perché effettivamente il bilancio italiano secondo me non è chiarissimo, perché noi sappiamo che lo Stato italiano ha dei debiti enormi distribuiti in giro con le scuole, con le ASL, poi ci sono debiti delle varie amministrazioni locali, eccetera. Quindi in realtà c'è il pericolo che salti fuori che anche il nostro debito è superiore a quanto dichiarato. Insomma, io ho parecchio timore che l'Italia possa essere lei uno dei prossimi obiettivi, che in quel caso lì che sarebbe un attacco mortale.